si desidera il mare, quel mondo sommerso sarà presto diverso. C'è vento ed il mare violento, sibila sulla ruggine di una nave arenata, e sangue nero è ovunque, la stiamo perdendo. L'oceano si macchia di sporco e resta coinvolto. La tragedia si è svolta nel mare. Pioggia è acida e l'evento precipita, la fauna si spegne in un'onda di rassegnazione e rimango immobile.